mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano. Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano, io sono così. Sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il falco e il gabbiano, dal lunedì al venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Oggi vedevo il torneo di Viareggio. Io non sono razzista, ho avuto Rijkaard, però vedere così tanti giocatori di colore, vedere così tanti stranieri, beh, è un'offesa per il calcio italiano. E così anche per voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, tutti questi giocatori neri un'offesa per il calcio italiano. Questo lo dice Arrigo Sacchi, sul quale si è scatenata una bufera. Sacchi, ex CT, no, della nazionale italiana, che è stato intervistato da Tutto Mercato Web e parlava dei calciatori stranieri, fa riferimento appunto, avete sentito, giocatori di colore, anche se poi ha precisato: non sono razzista, la mia storia lo dimostra. Che ne pensate? Naturalmente vi sottoporrò molti altri temi questa sera a seconda delle notizie oggi principali del giorno. E voi potete sempre intervenire, come sapete ormai da tempo, ma se avete appena acceso per la prima volta su Effetto Notte, ricordatevi poi di accendere sempre alle 21. Ci sono i messaggi che potete mandare al 349-238-6666, gli sms 349-238-6666, oppure c'è sempre lì la pagina Facebook per voi, per aderire naturalmente senza indugi alla pagina e anche per fare i vostri commenti in piena libertà. E fra le altre cose, naturalmente parleremo anche di Libia. Ho visto ieri tantissimi dei vostri messaggi, non pensavo davvero tutto questo coinvolgimento, evidentemente crea come naturale inquietudine, ma anche riflessioni, c'erano anche riflessioni di una certa lucidità. Stasera ne parleremo in particolare con due esponenti politici della politica italiana, uno della Lega e uno del PD, così come parleremo con loro anche di riforme, visto che c'è tutto questo caos riforme, con Mattarella che sta incontrando le opposizioni, Salvini che ha detto: che devo chiedere a Mattarella? Devo chiedergli il numero del parrucchiere. E poco fa c'era una nota del Quirinale di Mattarella che insomma è abbastanza sconcertato da questa dichiarazione. Parleremo di questo, parleremo anche delle nuove accuse nei confronti di Massimo Bossetti, sapete, l'unico indagato per l'omicidio della piccola Yara Gambirasio. Insomma, un sacco di notizie, come sempre incomincio con riepilogarvi la giornata. Allarme per la Libia, l'Egitto bombarda ancora e chiede un intervento internazionale. Italia e Unione Europea spingono per un'azione diplomatica, vertice a Palazzo Chigi per la sicurezza. Grecia, il governo Tsipras deciderà domani se chiedere un'estensione del prestito concesso dall'Unione Europea. Colloquio telefonico tra il primo ministro greco e Renzi. Riforme, Mattarella riceve le opposizioni al Quirinale, andrà anche Grillo, Salvini chiede: che ci vado a fare? Il caso Ruby, in base alle indagini Berlusconi paga ancora le olgettine. L'omicidio di Palermo si consegna all'assassino del giovane ucciso venerdì in discoteca, si tratta di un minorenne. Epatite C, arrivano i nuovi farmaci contro la malattia, saranno gratis. La decisione dell'antitrust, l'autorità garante sanziona 4 grandi produttori di patatine fritte con una multa di 1 milione di euro. E per il calcio, bufera su Arrigo Sacchi, come avete sentito dopo le sue dichiarazioni sui calciatori di colore. I giocatori del Parma intanto concedono una proroga per i pagamenti e stasera torna la Champions League. Partiamo quindi dalla grave emergenza rappresentata da ciò che sta succedendo in Libia. L'Egitto prosegue con i bombardamenti, il governo italiano e l'Unione Europea spingono per un intervento diplomatico e domani il Consiglio di sicurezza ONU si occuperà della crisi. I raid dei caccia egiziani proseguono sulle postazioni ISIS a Derna, città nell'est della Libia, in risposta alla decapitazione di 21 cristiani copti, un'offensiva che sembra destinata a proseguire dopo la notizia del rapimento da parte dell'ISIS di altri 35 egiziani, quasi tutti contadini, in diverse zone della Libia. I raid condotti dal Cairo sono stati definiti atti terroristici dal premier del governo libico di Tripoli, Omar Al-Azi, non riconosciuto dalla comunità internazionale, che accusa il governo egiziano di voler portare all'estero la sua crisi interna. Moderna. Il possibile intervento della comunità internazionale trova l'opposizione anche del movimento palestinese Hamas, che ha definito le possibili ingerenze in Libia da parte di paesi come l'Italia come una nuova crociata. Il presidente egiziano Al-Sisi caldeggia un intervento dell'ONU nel paese nordafricano, d'accordo in questo con il suo omologo francese Hollande. La diplomazia è al lavoro in vista della riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che si terrà domani. Da una possibile coalizione di paesi incaricati di un intervento in Libia si chiama fuori la Gran Bretagna, che ha già fatto sapere di essere concentrata su una soluzione politica e di escludere azioni militari nel paese nordafricano. La strategia di espansione dei vari gruppi legati all'ISIS colpisce intanto in tutto il Medio Oriente. In Iraq i jihadisti dello Stato Islamico hanno arso vive 45 persone ad al-Baghdadi, a soli 8 chilometri dalla base aerea americana dove i marines stanno addestrando i soldati della 7ª divisione irachena. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E quello che sta accadendo in Libia, tra l'altro, ne abbiamo parlato ieri, provoca un aumento degli sbarchi in Sicilia. Quasi 4.000 sono le persone che sono arrivate negli ultimi 5 giorni, ma di questo poi parleremo più tardi direttamente con la nostra inviata in Sicilia. Passiamo alla Grecia. Dopo un muro contro muro tra governo greco e Unione Europea, il governo Tsipras ha fatto sapere che deciderà domani se chiedere un'estensione del prestito concesso dai partner europei, ma non dell'intero programma di assistenza finanziaria, con tutte le condizioni che questo comporta. Intanto si apprende che in serata c'è stato un colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio Renzi e il primo ministro greco Tsipras. E siamo alla politica italiana. Una giornata, quella di oggi, focalizzata, come dicevo all'inizio, soprattutto sugli incontri del presidente Mattarella con le opposizioni. Per Sergio Mattarella si conclude con la soddisfazione delle opposizioni. Dopo l'Aventino sulle riforme, il capo dello Stato riceve Forza Italia SL. Renato Brunetta consegna al presidente un appello in 25 punti a difesa della Costituzione, in pratica una bocciatura del patto del Nazareno. Così il capogruppo di Forza Italia. Non si può cambiare 40 articoli della Costituzione a colpi di maggioranza, per di più incostituzionale, di notte. Per Sella, Nichi Vendola lancia l'allarme sul Parlamento umiliato. Se questa modalità di operare diventa ordinaria e se questa modalità riguarda anche un oggetto particolarmente delicato e prezioso come la nostra Costituzione, noi siamo di fronte a un vulnus. Sarà poi la volta del Movimento 5 Stelle, che ringrazia Mattarella per aver risposto alla richiesta di incontro, e Beppe Grillo mostra la lettera del presidente sul web. Dice no invece Matteo Salvini della Lega e si chiede cosa deve andare a fare al Quirinale, magari a chiedere il numero di telefono del parrucchiere di Mattarella. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ci sono nuove accuse per Berlusconi sul caso Ruby. Berlusconi starebbe continuando a retribuire le ragazze presenti alle serate di Arcole che hanno testimoniato nei processi su Ruby. Emerge questo dalle indagini di Milano che hanno portato alle perquisizioni di oggi. In particolare gli investigatori hanno scoperto acquisizioni di immobili sospetti da parte di alcune ragazze con alto tenore di vita rispetto ai redditi da loro dichiarati. E poi bisogna parlare naturalmente della scomparsa del papà della Nutella. C'è anche la corona del presidente della Repubblica Mattarella accanto alla bara di Michele Ferrero ad Alba. Domani ci saranno i funerali. Ferrero non è né sarà in vendita. Lo chiarisce senza ombra di smentite Giovanni Ferrero, amministratore delegato del gruppo, respingendo con forza le voci circolate secondo cui l'azienda potrebbe essere ceduta. Illazioni diffuse in un momento doloroso per la famiglia e per l'azienda, precisa Giovanni, erede di Michele, morto sabato scorso, artefice del successo Ferrero in tutto il mondo. Domani l'ultimo saluto. Oggi centinaia di persone sotto la pioggia hanno atteso ad Alba l'apertura della camera ardente. I cancelli dell'azienda, dove è stato portato il feretro, sono stati aperti pochi minuti dopo le 8. In coda soprattutto dipendenti con le loro famiglie, ex dipendenti e abitanti dei paesi della zona. Quando entri qua, entri in una famiglia, non entri in una fabbrica. Gente rara. Michele Ferrero, molto amato, espressione forte di un intero territorio e di un'imprenditoria familiare, antica, rimpianta. La storia di un uomo che ogni settimana andava in un supermercato. Voleva vedere di persona come venivano scelti i suoi prodotti. Non si presentava mai come Michele Ferrero. Per il direttore del negozio era un tecnico qualunque. Anna Rita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca. Si è costituito nel carcere minorile Malaspina di Palermo un giovane di 17 anni che ha confessato di essere l'autore dell'uccisione di Aldo Naro, il 25enne neolaureato in medicina, morto a causa di un calcio alla testa nel corso di una rissa venerdì nella discoteca Goa. E poi un altro fatto: Emanuele Casula, il 18enne, arrestato dai carabinieri all'inizio dello scorso ottobre con l'accusa di aver ucciso nell'agosto scorso in Valtellina la sua fidanzata Veronica Balsamo di 23 anni, ha confessato il delitto. Il giovane ha anche ammesso di aver aggredito sempre quella sera del 23 agosto vicino a Grosotto Gianmario Lucchini, 35 anni, che si trovava nella propria casa, poche centinaia di metri dal dirupo in cui la ragazza fu gettata. Lucchini, che ha avuto la testa trapassata da un cacciavite, è ancora tra l'altro in ospedale in coma vegetativo. E il delitto di Yara: nuove prove emergono a carico di Massimo Bossetti, unico indagato per l'omicidio della tredicenne di Brembate, Yara Gambirasio, e di questo parleremo poi direttamente con il suo avvocato, l'avvocato di Bossetti, che dovremo raggiungere più tardi. C'è una decisione dell'antitrust sulle patatine fritte, che sono nel mirino dell'autorità di garanzia, che ha sanzionato quattro big del settore, San Carlo, Amica Chips, Pata e Ica Foods, con una multa complessiva di 1 milione di euro per pubblicità ingannevole, in particolare per caratteristiche nutrizionali o salutistiche non corrette o vanti di artigianalità per prodotti in realtà industriali. C'è un nuovo farmaco, questa è la buona notizia, contro l'epatite C, si chiama Simeprevir e ha il più alto successo di guarigione mai raggiunto nella cura di questa malattia. I malati in Italia sono 1,5 milioni, nel mondo sono 170 milioni e da domani o dopodomani sarà possibile averlo. Viene venduto a livello mondiale e prodotto dagli stabilimenti Janssen di Latina, che ha già investito 100 milioni in questi 5 anni, assunto 300 addetti, ma sono in arrivo per il 2016-2021 altri 80 milioni di euro che produrranno nuove assunzioni. È stato acquistato anche un terreno di 5.000 metri quadri per l'ampliamento di questa azienda. La ministra Lorenzin ha dichiarato che è l'anno magico per il settore farmaceutico in Italia, perché importantissime linee di farmaci innovativi vengono realizzati proprio da impianti italiani. In Salodo ha intervistato Massimo Scacabarozzi, presidente di Farmaindustria e presidente AD di Janssen Italia. È una nuova cura che sarà a giorni a disposizione di tutti i pazienti italiani, è un farmaco innovativo, nuovo, è stato già regolarmente registrato in Italia, noi lo produciamo già a Latina per tutto il mondo ed è un farmaco che da solo o in associazione potrà dare dei risultati straordinari nella cura definitiva di questa malattia. È un rilancio per questa azienda? Beh, la nostra azienda è un'azienda che da tempo ha messo sul mercato farmaci innovativi nell'ambito dell'HIV, dei tumori, i tumori prostatici, nei mielomi multipli, adesso si era già lanciata nell'epatite 2 anni fa con un farmaco innovativo. Questo è un superamento ed è un superamento importante perché è, oltre ad essere molto più efficace, anche molto ben tollerato rispetto a quello che avevamo prima. Siamo al calcio, vedo già un sacco di vostri commenti sulle dichiarazioni di Sacchi. Concordo con Sacchi, me ne rammarico, Niki dice. Poi un altro ascoltatore al 349-238-6666. Sacchi si riferiva agli stranieri in generale, il resto è polemica sterile e tendenziosa. Stefano da Palermo lo scrive. Morena, non è razzismo, credo che in Italia ci siano talenti e potenziali talenti nel calcio, perché non cercarli? Alessandro, beh, avremo mica paura di 10 esaltati e in Italia che cosa ci verrebbero a fare con i gommoni? Ma per piacere, vabbè, si riferisce alla Libia evidentemente. E poi critiche su Salvini. Un altro ascoltatore dice: è vero, ci sono troppi stranieri, stupido dire troppi di colore. Aldo: sono pienamente d'accordo con Arrigo, in pochi vedono così bene senza pregiudiziali. Così siamo arrivati al calcio, perché mentre i giocatori del Parma concedono un'ulteriore proroga per essere pagati e non mettere quindi in mora la società, mentre Arrigo Sacchi, come avete sentito, non fa bella figura, ma qualcuno è d'accordo sul fatto, sui commenti relativi ai calciatori, stasera torna la Champions League e torna Dario Ricci. Dario. Eccoci qua Roberta, sì, prime 2 gare d'andata degli ottavi di finale della Champions, questa sera in campo da circa mezz'ora a Parigi, Paris Saint-Germain e Chelsea, ancora sullo 0-0, ma già 2 buone occasioni per i parigini con Ibrahimovic. E poi a Leopoli, perché ovviamente a Donetsk, causa guerriglia mai interrotta, non si può certo giocare. Lo Shakhtar è in campo contro il Bayern Monaco, anche in questo caso ancora sullo 0-0. Grazie Dario Ricci, ci aggiorniamo dopo con la Champions. Adesso vi ricordo che potete continuare a mandare i messaggi, come state facendo, sia al 349-238-6666, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Potete anche, se volete, continuare come ieri anche a commentare la situazione in Libia e a dire quali sono le vostre sensazioni. Ieri avete parlato anche di molte paure, qualcuno anche di la questione di intervenire o di non intervenire. Comunque ne ragioniamo dopo, anche con 2 esponenti politici. Aggiorniamo chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E ritorno sulle notizie mentre guardavo ancora i vostri messaggi, poi leggerò qualcuno anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Intanto le notizie più importanti della giornata, per riassumerle nuovamente se aveste acceso la radio in questo momento, ricordatevi di accendere però alle 21, sono queste. Libia, l'Occidente unito dice che condanna il terrorismo, la soluzione deve essere politica, una dichiarazione congiunta di Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti. Per la Grecia muro contro muro, anche se c'è stata una lieve apertura in serata del primo ministro Tsipras che dice vedremo domani se estendere ancora gli aiuti da parte dell'Unione Europea. Mattarella, presidente, oggi ha ricevuto le opposizioni, anche Grillo andrà al Colle, Salvini dice che ci vado a fare, stupore per questa dichiarazione dal Quirinale. Il caso Ucraina, Poroshenko dice a rischio la pace nel mondo e si continua a combattere nel sud-est del paese. Per quanto riguarda il caso Ruby, avete sentito nuove accuse a Berlusconi, paga ancora cash, questa è l'espressione, le ragazze, le oggettine, perquisizioni a casa delle oggettine di Ruby, sequestrato un PC dell'avvocato. Caso Yara, da un esame sui vestiti della ragazzina, tracce del tessuto dei sedili del furgone di Bossetti, di questo parleremo col suo avvocato. Arrivano nuovi farmaci contro l'epatite C, saranno gratis. Adesso parliamo dei partiti e delle riforme, poi parleremo anche naturalmente di Libia. Oggi le opposizioni sono state ricevute, come vi dicevo all'inizio, al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha espresso il desiderio di riprendere il dialogo sulle riforme. In realtà si è cominciato oggi da Forza Italia e da SEL. Per Forza Italia c'era il capogruppo alla Camera Renato Brunetta, il quale ha consegnato a Mattarella una specie di lettera appello di 25 punti in cui si ricorda la necessità di un clima di condivisione sulle riforme. Per SEL, subito dopo Mattarella ha incontrato Nichi Vendola e anche Beppe Grillo, entusiasta, su Twitter ha postato la lettera inviatagli dal capo dello Stato Mattarella. Ha scritto: Mattarella ha risposto alla mia richiesta di incontro, lo ringrazio Presidente, ci vediamo al Quirinale. Fa eccezione la Lega con Salvini, che ha chiesto ai suoi sostenitori attraverso Radio Padania se vogliono che vada anche lui al Quirinale da Mattarella, dove sta appunto ricevendo le posizioni. Ha detto sì, ma alla fine che cosa devo chiedere a Mattarella? Chiede il numero di telefono del parrucchiere? Allora chiedo se per caso Salvini avesse bisogno effettivamente di un parrucchiere, l'onorevole Massimiliano Fedriga. Buonasera onorevole. Buonasera, grazie dell'invito. Grazie a lei. Capogruppo della Lega Nord alla Camera. Come mai? Sì. Giusto il numero del parrucchiere chiederebbe, non c'è altro da chiedere a Mattarella da parte della Lega? No, vabbè, ma abbiamo deciso anche come Lega, essendo questa una questione che riguarda l'attività parlamentare, in particolar modo quanto successo alla Camera, che la delegazione sarà composta dal capogruppo alla Camera, cioè me, e dal presidente del gruppo al Senato, quindi è una questione che riguarda direttamente quanto verificatosi all'interno dell'attività parlamentare, specificatamente per quanto riguarda le riforme costituzionali, quindi abbiamo deciso anche come movimento di andare in modo coerente rispetto alle richieste che dobbiamo fare e rispetto alle questioni da porre al Presidente della Repubblica. Quindi Salvini non ci sarà, ma ci sarà una delegazione con lei a capo. Perché l'agenzia di pochissimo fa, non so se l'ha sentita, a proposito di questa nota del Quirinale, che dice: vi è stupore il Quirinale per le dichiarazioni rese oggi dal segretario della Lega Nord Salvini, che ha annunciato che non sarà presente in occasione dell'udienza col Presidente Mattarella. Udienza che era stata chiesta, si apprende da fonti interpellate in proposito, dai parlamentari della Lega Nord negli ultimi giorni. Cos'è stato un sì, ma guardi che io ho parlato personalmente col Quirinale e da subito ho concordato e comunicato che sarebbero venuti i presidenti dei gruppi parlamentari, quindi non c'è nessun qui pro quo. Probabilmente le agenzie hanno delle informazioni o degli informatori poco attenti a quanto avvenuto. Noi andremo mercoledì prossimo alle 12 da Presidente Mattarella. Che cosa chiederete in particolare, Fedriga, come Lega Nord? Ma guardi, noi più che altro solleveremo un problema, chiaramente segnalando il problema che si è venuto a creare durante l'iter parlamentare. È chiaro che rapporti o meglio interventi diretti non sono nelle disponibilità del Presidente della Repubblica, visto l'indipendenza che hanno anche ovviamente Camera e Senato, però è altrettanto vero che noi aspettiamo un'opera di persuasion da parte del Presidente della Repubblica, perché è inaccettabile quanto sta avvenendo e quanto è avvenuto nel scritto che la Camera sono state avanti delle riforme costituzionali da un partito che rappresenta il 27% del voto. Fedriga, lei è in un aeroporto, in una stazione, condividere e confrontarsi. e oltretutto con delle forzature nelle procedure mai avvenute nella storia repubblicana. Ecco, lei si riferisce, immagino, a qualche giorno fa, mi pare giovedì, alla Camera, quando c'è stata quella bagarre, le opposizioni sono uscite accusando di atteggiamento dittatoriale Renzi sulle riforme. Allora, cosa ne pensa l'onorevole Enzo Amendola, che saluto, buonasera onorevole Amendola. Buonasera, buonasera. Responsabile esteri del PD e capogruppo in commissione esteri alla Camera. Ha sentito le obiezioni di Fedriga? Le obiezioni sulla vicenda Salvini-Mattarella permette, non ho niente da commentare, già di per sé si commentano. Per quanto riguarda l'iter delle riforme, è un iter che andrà avanti perché nasce da un lavoro fatto in commissione in cui alcuni partiti dell'opposizione hanno partecipato, se non sottoscritto, alcune proposte. Noi l'abbiamo sempre detto durante quelle giornate un po' convulse, anche subito dopo, che ci aspettiamo di lavorare insieme e di continuarle in una maniera più inclusiva possibile. È evidente però che il dovere delle minoranze si lega anche al dovere della maggioranza di fare delle proposte. Sono oramai anni che si aspetta e c'è una discussione largamente condivisa di un superamento dell'istituto del bicameralismo in Italia, e dato che era anche condiviso nell'iter in commissione, io credo che fosse nostro dovere continuare su quella strada. Siamo aperti nel prosieguo a ritornare su quei passi che erano, lo sottolineo quattro volte, discussi ampiamente, sottoscritti, ampiamente condivisi dai partiti di alcuni partiti dell'opposizione. Poi torneremo tra pochissimo a Fedriga, però vorrei far sentire, a proposito degli incontri che ci sono stati oggi tra Mattarella e l'opposizione, cioè Forza Italia e SEL, per oggi, che cosa ha detto Brunetta di Forza Italia. Conoscendo la persona e la personalità di Mattarella, non da oggi, penso che userà di tutti i suoi strumenti, gli strumenti previsti dalla Costituzione, per ripristinare un clima di dialogo, ovviamente nella distinzione tra maggioranza e opposizione. E ripeto, non si può cambiare 40 articoli della Costituzione a colpi di maggioranza, per di più incostituzionale, di notte, e chiedere coesione nazionale, dati i tempi drammatici, di giorno. Questo il commento di Brunetta. Sentiamo anche Nichi Vendola, leader di SEL. La terza questione che abbiamo posto riguarda il clima politico istituzionale che si è venuto a creare a causa di due fatti. A causa dell'idea che si possa governare con colpi di mano, con accelerazioni che imbavagliano il Parlamento, con una permanente forma di umiliazione della funzione parlamentare. Il Parlamento è il rappresentante del popolo, non può essere ridotto al rango di un votificio. Che ne pensa Amendola di questo commento e questa amarezza anche di Vendola? Dice qui non si può governare a colpi di maggioranza. Ma la maggioranza ha il dovere di proporre delle riforme per il Paese. L'abbiamo fatto non solo sull'architettura istituzionale, ma anche su vari altri elementi. Ripeto, perché abbassare i toni, figurarsi, abbiamo vissuto giornate convulse e anche un po' che hanno fatto dispiacere, però è evidente che il nostro tentativo nel prosieguo sarà sempre quello di includere e discutere con tutte le forze. Altre forze di opposizione, non è il caso di Vendola, ma di gruppi molto rappresentativi come quello del 5 Stelle, hanno posto degli out più che partecipare al processo riformatore. Uno deve rispettare sempre, un partito deve rispettare sempre le proposte di tutti, ma non può chiudersi nei veti di alcune che sono stati espressi in quelle giornate. Massimiliano Fedriga, lei sta continuando a viaggiare? No? Sta viaggiando, ma non è più al telefono, quindi vediamo se riusciamo a recuperarlo. Intanto vorrei passare anche, onorevole Amendola, all'emergenza Libia. C'è stato anche un vertice sulla sicurezza questa sera, no? Se non sbaglio, al Viminale, poi sia Renzi, sia il governo italiano che l'Unione Europea, ma mi pare vari altri stati, anche gli Stati Uniti, spingono per una via diplomatica. E quali sono i prossimi passi, vista la situazione così? Oggi ci sono stati parecchi scontri, ci sono state anche telefonate tra Renzi e Hollande, incontro a Madrid tra l'altro commissario per la politica estera Federica Mogherini e l'inviato Bernardino Leone, e domani c'è il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Noi da tempo come Italia spingevamo perché la comunità internazionale si preoccupasse di più nel consesso e soprattutto nella condivisione di quello che è la situazione libica. La situazione è precipitata anche perché, oltre alla contesa tra due blocchi che da un anno sfidano con due parlamenti differenti, due primi ministri e anche con il controllo del territorio, alcuni gruppi jihadisti, facendo anche quella barbara estorsione, 21 cittadini egiziani, si sono collegati al sogno nefasto e totalitario del califfato. Questo ha creato una situazione ancora più esplosiva, perché il paese è diviso da oramai da 3 anni da fratture e da conflitti, e quindi la nostra attenzione sulla Libia adesso finalmente è diventata centrale, non solo nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma l'attenzione di tutti. Ci vuole molto lavoro, molta spinta, ci vuole la collaborazione di tutti i paesi, come c'è della sponda sud, dalla Tunisia all'Algeria all'Egitto, ci vuole la condivisione, cioè di una comunità internazionale che deve stabilizzare e portare pace in Libia. A proposito di Libia, finalmente abbiamo recuperato l'onorevole Fedriga, che sta viaggiando a tutto andare in treno, onorevole? Esatto, verso Roma, quindi mi dispiace. Dove sei, Massimiliano? Dove sei, Massimiliano? Chiede Amendola. Sono tra Firenze e Roma. Siete amici sotto, bisticciate in Parlamento e poi siete amici. No, meno male. Molto rispetto per il collega. Ah, benissimo, reciproco. Questo fa piacere, reciproco. Una dichiarazione quasi d'amore. Fedriga, le faccio sentire che cosa ha detto Salvini a proposito appunto dell'emergenza Libia, poi la commentiamo. Prima di fare guerre intelligenti, che sono guerre economiche che convengono a qualcuno, bisogna preparare il terreno, decidere con chi si dialoga dopo la guerra, sospendere gli sbarchi, controllare chi entra in Italia, quindi rivedere il trattato di Schengen, e sospendere l'arrivo di 1000 persone al giorno, perché non ha senso. E chiudo dicendo: ritirare le truppe della NATO ai confini con la Russia, che deve essere un alleato contro il terrorismo islamico, e perché giocare alla guerra contro la Russia mentre c'è gente che brucia viva una persona in una gabbia mi sembra da idioti. Fedriga, tra l'altro, Salvini ha annunciato un esposto contro il governo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è vero? Pensiamo che in questo momento, e lo dicono i servizi di intelligence, lo dice il manuale del perfetto leghista, da ogni sbarco il terrorismo guadagna dai 400 ai 500 mila dollari. È chiaro che se la politica del governo italiano è quella da fare da taxi del mare per favorire questa immigrazione clandestina, perché il dato di fatto è quello, siamo l'unico paese europeo che compie azioni come Mare Nostrum, il dato indiretto, non volontario, chiamatelo come volete, però è quello di aiutare il terrorismo e di aiutare l'immigrazione clandestina e di aiutare gli scafisti. Qual è la vostra soluzione, Fedriga, su questa cosa? Ma guardi, noi purtroppo per troppo tempo l'Europa ha abbandonato il Nord Africa. Il governo italiano, quando c'era da porre il tema in modo pesante, è tornato urlando e gridando alla vittoria per l'inizio dell'operazione Triton, e noi da subito abbiamo detto che era l'ennesima presa in giro, era semplicemente la prosecuzione di Mare Nostrum, infatti così si è verificato. Ed è stato abbandonato totalmente la Libia. Quello che ha detto Salvini è assolutamente condivisibile. Noi sulla Libia bisogna intervenire solamente in un momento nel quale si ha certezza di dove si vuole arrivare. L'errore fatto con la guerra a Gheddafi è stato, lo stiamo pagando e stiamo pagando carissime quelle conseguenze. È chiaro però che continuare ad incentivare i viaggi della morte non soltanto aiuta i terroristi, ma aumenta anche le vittime in mare. Non a caso, da quando è iniziato Mare Nostrum, sono aumentate le persone che purtroppo hanno perso la vita nel Mediterraneo. Amendola, vuoi fare proprio una chiosa di 45 secondi? onorevole Mendola? Ma ce ne sarebbe da dire un po' di più sui ponti di Salvini. Faccio presente 2-3 così al volo. La sospensione di Schengen non lo fece nemmeno il ministro Maroni della Lega quando nel 2011 arrivarono 30.000 tunisini. Anzi, Maroni, ricordo una sua dichiarazione, disse: sospendere Schengen sarebbe un colpo all'Europa. Sono fenomeni complessi che finalmente si vede, viene alla luce che non è un problema solo di viaggi di immigrati che scappano, ma di un paese che è esploso, e lavorare per stabilizzare quel paese significa anche fermare viaggi della morte in cui tanti cittadini che scappano dalle guerre trovano la morte in mare. Quindi farlo è complesso, nessuno dice che non vogliamo risolverlo, anzi quella che l'ha spinta alla diplomazia internazionale è proprio per intervenire sulla Libia, ma quando ci sono fenomeni storici così delicati e anche brutali è evidente che dare risposte solo solleticano gli istinti più colpiti non si risolve il problema. Allora, io intanto spero che arriviate a una soluzione condivisa, visto che sotto sotto vi volete bene, onorevole Amendola, onorevole Fedriga, e chiedo all'onorevole Fedriga se mi manda questo manuale del perfetto leghista, giusto per curiosità, voglio vedere un po' quello. Devo ancora scriverlo, ma quando è pronto sarà la prima ad averlo. Grazie mille, mi sento privilegiata. Grazie onorevole Fedriga, grazie onorevole Amendola, buona continuazione. E ci prendiamo questa pausa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre insieme Roberto Giordano con voi, vedo molti vostri messaggi, tra l'altro stanno arrivando varie agenzie di dichiarazioni congiunte dei paesi dell'Occidente sulla Libia, per esempio questa: 4 anni dopo la rivoluzione, cioè dal 2011, non sarà consentito a chi tenta di impedire il processo politico e la transizione democratica della Libia di condannare il paese al caos e all'estremismo, costoro saranno ritenuti responsabili dal popolo libico e dalla comunità internazionale per le loro azioni. Questa dichiarazione congiunta delle varie che stanno arrivando tra Francia, Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti. E poi continuano i vostri messaggi, c'è Carlo da Pavia che dice: cara Giordano, voglio denunciare la vigliacca imposizione dell'imposta di bollo su tutti i depositi bancari, compresi i libretti postali dei pensionati, un balzello più odioso del furto che Amato fece a suo tempo. Questa quindi è un'altra, commento su un'altra notizia. Stefano da Modena: non avverto un pericolo così elevato dell'ISIS, quanto piuttosto di un'invasione incontrollata di profughi, creando un vero e proprio terremoto sociale devastante. E poi vari altri messaggi, per esempio Arcangelo della provincia di Napoli: bisogna agire con la via diplomatica, ma quale dialogo può esserci con questi barbari e soprattutto chi dialogherà con loro? Insomma, le istituzioni preposte, come si dice, queste dichiarazioni congiunte fanno pensare che forse la situazione verrà presa in mano, capiremo anche come. Intanto vi riepilogo le notizie del giorno. Allarme per la Libia, l'Egitto bombarda ancora e chiede un intervento internazionale, Italia e Unione Europea spingono per un'azione diplomatica, ma così anche vari paesi occidentali, come avete sentito. Grecia: il governo Tsipras deciderà domani se chiedere un'estensione del prestito concesso dall'Unione Europea. Colloquio telefonico intanto in serata tra il primo ministro greco e il presidente del Consiglio Renzi. Riforme: Mattarella riceve le opposizioni al Quirinale, andrà anche Grillo, Salvini chiede che ci vado a fare, ma poco fa qui effetto note l'onorevole leghista Fedriga ha detto che ci andrà lui con una delegazione. Il caso Ruby: in base alle indagini Berlusconi paga ancora le olgettine. L'omicidio di Palermo: si consegna all'assassino del giovane ucciso venerdì in discoteca, si tratta di un minorenne. Epatite C: arrivano i nuovi farmaci contro la malattia, saranno gratis. E poi la decisione dell'antitrust che sanziona 4 grandi produttori di patatine fritte con una multa da 1 milione di euro per pubblicità ingannevole. Per il calcio, la bufera su Arrigo Sacchi dopo le dichiarazioni sui calciatori di colore e la Champions League che ritorna. E proprio di ritorno torniamo a parlare di Libia, dell'allerta terrorismo legata all'immigrazione. Secondo i servizi segreti, il traffico di clandestini, dicevamo anche ieri, verso le nostre coste sarebbe in buona parte gestito dai terroristi dell'ISIS. La strategia, insomma, dei miliziani sarebbe quella di moltiplicare gli sbarchi per creare caos, e si temono 200.000 arrivi. La Sicilia è l'avamposto con rischio di collasso dei centri di accoglienza. L'esperienza l'ha avuta andando lì in Sicilia Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Oggi sei stata al centro di accoglienza di Pozzallo, no? Vicino a Ragusa. Esatto. Esatto, sì, che è dopo Lampedusa, diciamo, forse insieme a Porto Empedocle, è uno dei posti che sono più proprio al classico avamposto d'Italia, dove arrivano in moltissimi, e in questi giorni, solo in due giorni, ne sono arrivati in 500, e questo soprattutto d'inverno non era mai capitato da queste parti. Il centro d'accoglienza si trova su una punta proprio che sorge e c'è il mare sotto, e faceva impressione sentire e vedere anche proprio le onde alte sulla riva. Immaginiamo quanto alte potessero essere appunto le onde in mare aperto. Nonostante questo, soltanto nella giornata di ieri ci sono stati due sbarchi diversi qui a Pozzallo, e la situazione del centro d'accoglienza, anche questo è pieno come è strapieno quello di Lampedusa, ma è soprattutto ci sono soprattutto indicazioni di un'emergenza diversa dal passato. Lo si capisce da questi sbarchi continui che stanno arrivando soprattutto d'inverno, nonostante le cattive condizioni del tempo, quindi sta diluviando oggi, e lo si capisce anche dai racconti che gli stessi migranti fanno. Raccontano infatti di queste organizzazioni più violente anche di quelle del passato, che li hanno costretti a partire nonostante appunto le diverse condizioni del tempo. Raccontano della grande situazione di incertezza che in questo momento c'è in Libia, e sono loro stessi a raccontare dei tantissimi, appunto si stima 200.000, ma perché ce ne sono nei campi profughi libici almeno 500.000, dei tantissimi pronti appunto a prendere la via del mare in questi giorni. Loro stessi, appunto, questi profughi che sono tutti subsahariani, ma che sono partiti dalla Libia per l'Italia, lo hanno raccontato agli operatori del centro, lo hanno raccontato anche al direttore del consorzio Luoghi Comuni, che gestisce proprio il centro di accoglienza di Pozzallo. È un tunisino, e anche questa è una bella storia, un chimico tunisino arrivato qui ormai da anni. Che è il direttore di questo centro, quindi un tunisino. Che è il direttore di questo centro, un immigrato a sua volta che gestisce il centro di immigrazione di Pozzallo. Sentiamolo. Tantissimi di loro praticamente subiscono violenze, torture, donne violentate, 15 donne qui all'interno della struttura che sono arrivati ieri e un po' hanno raccontato un po' di storie un po' drammatici. Che cosa hanno raccontato di come è cambiata la situazione in Libia? Riportano una situazione molto, molto drastica, incerta. Ci hanno riferito che ci sono altri che stanno cercando per partire nonostante le condizioni climatiche. Che cosa hanno raccontato anche rispetto a chi gestisce le partenze dalla Libia? Parlano di organizzazione già sul posto, già organizzati, già tutto pianificato, centri di raccolta, case di raccolta, parlano di vere scafisti che noi non vediamo qui. Anche oggi qui ci sono stati degli sbarchi a Porto Empedocle, sono arrivate 640 persone, insomma qui c'è un'emergenza davvero, davvero forte, e ci si prepara a cifre come non si era ancora mai visto, soprattutto d'inverno. Grazie Raffaella Calandra intanto, e buona ciao, continuazione Roberta, in grazie. Sicilia. Ciao Raffaella. Volevo guardare ancora qualcuno dei vostri messaggi, per esempio sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ritrovo questo di Elias, però, se non sbaglio, sulla Grecia. Dice: deve fare le riforme subito per essere un paese credibile e restare nell'euro. La colpa è tutta del centrodestra di Samaras, che ha truccato il conto del debito pubblico greco, adesso sta pagando il popolo. Ci torniamo dopo su altri temi. Io direi di prenderci questa pausa per aggiornare naturalmente chi viaggia. Voi potete continuare a scrivere i vostri commenti sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia con gli sms al 349-238-6666, e poi andremo su un altro tema, sulle nuove accuse nei confronti di Massimo Bossetti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ora ve le ricordo brevemente, ma intanto guardavo quest'altro messaggio sulla pagina di Effetto Notte. Maria, che dice, poco fiduciosa anche lei nelle vie diplomatiche, dice: una via diplomatica con l'ISIS, ma sanno di chi stanno parlando, anche se non sarà direttamente con loro, questo sarebbe l'obiettivo, ma con le milizie, con il governo attuale della Libia e con altre fazioni, insomma, paramilitari. È una cosa molto complessa, l'abbiamo detto più volte in questi giorni, certamente non è una cosa che possiamo definire così in poche parole. Sarà davvero un'azione congiunta di cui si devono occupare tutti i paesi europei, non solo, ma anche gli Stati Uniti, si vuole coinvolgere anche la Russia. Vedremo nei prossimi giorni. Intanto vi ricordo le notizie principali della giornata. La Libia è con l'Occidente Unito che condanna il terrorismo e mira a una soluzione politica con dichiarazioni congiunte di Italia, Germania, Spagna, Gran Bretagna e Stati Uniti. La Grecia, dopo il muro contro muro, stasera ha detto che proverà a pensare nelle prossime ore se estendere ulteriormente questo programma di aiuti da parte dell'Unione Europea oppure no. Oggi il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto le opposizioni, anche Grillo andrà al Colle, Salvini ha detto che ci vado a fare, ma avete sentito Fedriga, l'onorevole Fedriga della Lega ha detto che sarà presente dopo aver chiesto effettivamente un incontro con Mattarella. E poi il caso Ruby, nuove accuse a Berlusconi, paga ancora cash le ragazze, oggi sono state perquisizioni in varie case delle Olgettine, e sul caso Iara dà un esame sui vestiti della ragazzina, tracce del tessuto dei sedili del furgone di Bossette. Quindi ci sono nuove accuse, poi questo nuovo farmaco contro l'epatite C che dovrebbe essere diffuso anche in Italia tra domani e dopodomani. Europa 24 notte. Spazio europeo, parliamo della Commissione europea che stanzia 490 milioni di euro per il sud, servono per sostenere il patrimonio culturale del mezzogiorno italiano, questo lo stanzia la Commissione europea nell'ambito del programma Cultura e Sviluppo 2014-2020, soldi che verranno gestiti dal nostro Ministero dei Beni Culturali e destinati a 5 regioni del sud Italia, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per interventi di conservazione del patrimonio culturale, per il potenziamento del sistema di servizi turistici e di sostegno alla filiera imprenditoriale collegata al settore. Ma quanto è importante investire nella cultura oggi in Europa? Alessandra Schepisi lo ha chiesto all'europarlamentare Silvia Costa, componente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento Europeo. È importante perché intanto è un programma che riguarda soprattutto in questo caso mille regioni del sud, ma ricordiamoci che a questi circa 500 milioni di euro si aggiungono anche le risorse che già i POR regionali, mi pare che oggi che siano stati approvati ad oggi 11, hanno potuto inserire con riferimento alla cultura, al patrimonio culturale, ma anche alla valorizzazione del turismo culturale delle nuove imprese, perché la cultura entrasse nella politica anche di coesione, oltre che nella politica strutturali nazionali. Quindi diciamo che il PON nazionale integra, valorizza e mette in condizioni in prospettiva di riuscire a spenderli meglio, in particolare le regioni del sud. E la seconda ragione per cui mi pare molto importante è il fatto che si parla di importantissimo, certamente, restauro e valorizzazione del patrimonio, diciamo, materiale, però sappiamo che le nuove regole strutturali sono che queste restauri e queste valorizzazioni devono avere poi come fine un progetto, essere accompagnati da progetti, diciamo, di management sostenibile e quindi di valorizzazione vera, e dall'altro che però sostengono anche le piccole e medie imprese nella cultura, nella creatività, questa è la prima volta che è detto con questa chiarezza, e nel turismo sostenibile e culturale. Questo mi sembra un punto molto molto importante per l'Italia. L'Italia poi tra l'altro è un territorio d'elezione per le risorse destinate alla valorizzazione del patrimonio culturale, ci sono anche altre azioni che vengono portate avanti a livello europeo, no? Sì, guardi, noi abbiamo un altro grande bacino di cui si parla meno magari, che è lo sviluppo rurale. Lo sviluppo rurale, che sono circa 90 miliardi per i prossimi 7 anni per 28 paesi, le regioni stanno facendo i piani di sviluppo rurale regionale, sono progetti di sviluppo integrato, quindi integrato tra la parte, chiamiamo, strettamente agricola o produttivo di allevamento, ma anche con infrastrutture e servizi, e le infrastrutture possono essere anche culturali. E secondo, abbiamo una novità che è anche il fatto che stiamo valorizzando in questi anni molto di itinerari culturali europei che attraversano l'Europa, ma l'Italia in particolare, penso alla Rotta dei Fenici, e sono dei veri assi di un turismo diverso, di un turismo culturale lento, di un turismo anche ecologico, di un'attenzione alla piccola dimensione, alle piccole realtà nascoste ma straordinarie dell'Italia, e recentemente è diventata una linea di bilancio permanente dell'Unione Europea la proposta che avevo fatto qualche anno fa e che si ripetuta per 3 anni, finalmente è diventata una linea definitiva, e cioè sono delle bandi che si fanno proprio per promuovere prodotti e servizi per il turismo culturale. Quindi insomma la cultura anche come fattore di chiave per uscire dalla crisi. Assolutamente sì, forse è la prima volta che politiche europee e politiche italiane, anche grazie anche al ministro che è molto attento in questo senso, si stanno allineando, e soprattutto che l'Italia ha contribuito, questo lo dico con molta anche fierezza, contribuito in Europa a far capire questo. Non è sempre stato facile e c'è sempre stata un po' una reticenza soprattutto dei paesi nordici a capire che la cultura è la quarta gamma dello sviluppo sostenibile insieme all'economia, all'ambiente, quindi questo mi sembra un punto su cui si deve assolutamente andare avanti e non tornare indietro. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso occupiamoci del delitto di Brembate, o meglio il caso della piccola Yara Gambirasio, seviziata, lasciata morire tra le sterpaglie di Chignolo d'Isola nel Bergamasco il 26 novembre del 2010. Poi vi ricordate, i suoi resti furono ritrovati 3 mesi più tardi in un campo incolto a breve distanza da casa sua. Per questo delitto l'unico indagato è Massimo Giuseppe Bossetti, di 44 anni, carpentiere di Mapello, che è in carcere da 8 mesi. La prova regina nelle indagini sarebbe quella del DNA di Bossetti, ritrovato negli slip della ragazzina, però pare ci sia un'altra prova regina, seconda diciamo, cioè sono state ritrovate alcune fibre isolate sui pantaloni, sui leggings della ragazzina, che combaciano con quelle, queste fibre, dei sedili del furgone del carpentiere. Per gli inquirenti quindi sarebbe la prova che il 26 novembre, prima di essere uccisa, del 2010, prima di essere uccisa, la 13enne fu caricata sul furgone Iveco di Massimo Bossetti. E c'è, saluto l'avvocato Claudio Salvagni, che è legale di Bossetti. Buonasera, avvocato Salvagni. Buonasera a voi. Come commenta quindi questa nuova prova? Ma guardi, il mio primo commento a caldo è che ancora una volta mi trovo appunto a commentare una notizia investigativa che ho appreso dagli organi di stampa. Vorrei sottolineare questo dato, cioè la violazione del segreto istruttorio è penalmente sanzionata, e io non esiterò a presentare un esposto nei confronti di questa cosa, perché è evidente che qui è stato violato il segreto istruttorio. Detto questo, quindi, è detto che mi posso basare soltanto sulla notizia giornalistica, faccio una considerazione. Si vuole due considerazioni. Secondo me si vuole spostare l'attenzione da un problema fondamentale irrisolto, tuttora irrisolto, ovvero noi abbiamo rappresentato, o meglio, i consulenti della Procura hanno evidenziato quelle che hanno definito delle anomalie sul DNA, anomalie alle quali non è stata data ad oggi alcuna risposta. Questa questione del furgone, a mio modo di vedere, tende proprio a spostare l'attenzione su una questione parallela, per nascondere la mancata risposta a quelle tematiche di cui ho appena parlato. E la seconda è che tra una settimana ci sarà un pronunciamento della Cassazione su alcuni aspetti procedurali molto importanti. Quindi questa levata di scudi, questa alzare la voce così in maniera direi proprio veramente senza contraddittorio, quindi senza che io possa controbattere seriamente su questo tema, secondo me ha tutto un sapore di depistaggio delle menti, insomma, ecco. Però se queste fibre sono state trovate non possono dire il falso, cosa diciamo? Allora, queste fibre, se sono, qualora fossero state trovate delle fibre, e io non lo metto in dubbio perché insomma spero che non si voglia arrivare fino a tanto, o queste fibre anche loro hanno un DNA tale per cui si può paragonare al DNA, mi consente il paragone, con le fibre del sedile del furgone di Bossetti, oppure individuano una categoria merceologica, cioè le stoffe utilizzate per il furgone, per l'autocarro del signor Bossetti, sono le stoffe utilizzate per una quantità veramente incredibile di automezzi che vanno dalla piccola utilitaria, non voglio fare nomi di marchi, all'autocarro. Quindi mi pongo anche la domanda, ma posto che anche la mamma della povera Yara aveva una macchina che ben conosciuta, magari montava le stesse foderine. Avvocato, insomma, voglio dire, questo tessuto non è caratterizzante del veicolo di Bossetti, ma è caratterizzante di... La ringrazio, avvocato, dobbiamo chiudere, le chiedo scusa e ci sentiamo nei prossimi giorni.